Italia in controluce. Popolo leghista, popolo padano, un saluto caro dallo sceriffo d'Italia numero uno. Fuori dalle balle i clandestini. Voglio sangue di sue mutandine. Ramingo, porca miseria, vacca, osti, briaghi, 5 milioni all'anno di ingaggio. Fine, maledetti, fini di schei, osti, licenziati tutti. Vergogna, porcelli, tutti a casa sul piave. Popolo leghista, da queste assise veneziane, da Venezia che potrebbe essere la capitale della Padania, proclamo la mobilitazione generale del popolo veneto, che è una dichiarazione di guerra contro il popolo veneto. Vogliono distruggere la nostra civiltà, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra religione, non sia mai. E quindi dobbiamo vincere! Vince! Ebbene, queste frasi, aggiungo, grazie al cielo, non le sentirete più. Ci siamo divertiti a montare insieme alcune delle uscite davvero colorite, per usare un eufemismo, del sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini. E con sollievo prendiamo atto che non le sentiremo più, almeno Gentilini non le dirà come sindaco di Treviso, perché al ballottaggio per le amministrative nella sua città ha conquistato solo il 44,5% dei consensi, battuto dal candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che peraltro sentiremo fra pochissimo nell'intervista di Cristina Carpinelli. Esce dunque di scena il sindaco sceriffo che ad 84 anni avrebbe voluto tornare a ricoprire la poltrona di primo cittadino, ma ieri sera invece si è dovuto arrendere. Davvero, 84 anni, rimettersi in gioco, insomma, questo gli ha fatto in qualche modo onore. Si è chiusa, ha detto, un'era e Gentilini è finito, lo ha detto parlando di se stesso in terza persona. Mi hanno lasciato nel fango della sinistra, ma è stato un naufragio a tre perché si è chiusa anche l'era del PDL e della Lega. Queste le parole di ieri sera di Gentilini. Una amarezza la sua in una giornataccia davvero per la Lega, quella di ieri. E più generale, insomma, l'intero turno di amministrative non è andato davvero un granché. Ma era su Treviso che il partito teneva gli occhi puntati, tanto che è qui che il segretario Roberto Maroni giovedì scorso ha chiuso il suo tour preelettorale. Eppure la tappa di Maroni non è servita un granché. La città va dunque al centro-sinistra dopo quasi 20 anni di Lega. Treviso era stata la prima città importante presa dal partito nel 94. Perdere Treviso, culla del leghismo, insomma, davvero impone una riflessione approfondita che di fatto già la Lega ha avviato da tempo. Che cosa ha giocato nella sconfitta della Lega e del suo candidato, il candidato sceriffo Gentilini? Le vostre opinioni al 349-238-6666, aspettiamo dunque i vostri sms. Intanto sentiamo cosa ha da dire su questo punto Flavio Tosi, sindaco di Verona ed esponente di spicco della Lega. Lo ha intervistato stamattina la nostra Cristina Carpinelli. Ma il problema è, ovviamente, mi spiace umanamente moltissimo per Giancarlo Gentilini, perché lui ha dedicato 20 anni tutto se stesso alla città e evidentemente non è stato ripagato per l'impegno profuso, credo si meritasse un risultato diverso. E dopo lui è stato travolto dall'ondata generale di sfiducia che c'è nella politica in genere, perché al di là del fatto che il centrodestra e la Lega abbiano perso, e questo è evidente, è vistoso, cioè non è che sia, ma in realtà non hanno perso perché il centrosinistra ha preso voti che una volta erano voti del centrodestra o della Lega, ma semplicemente perché nel calo il centrosinistra è calato meno di quanto sia calato il centrodestra, siano calati il centrodestra e la Lega. Quindi è un problema che ci si deve porre tutti, quello di ridare credibilità e fiducia alla politica in generale, perché un'affluenza così bassa è un dato veramente drammatico per la democrazia, cioè veramente di che preoccuparsi, è la fotografia, è il risultato di tanti errori che ha fatto la politica, delle mancate riforme, di quello che serviva al paese che non è stato fatto, e adesso abbiamo pagato il dazio. Quindi diciamo che anche la Lega, che di fatto dal suo elettorato di base era percepita come un partito nuovo, capace di portare anche a Roma, no, le istanze della gente, dei lavoratori del nord, sta pagando un prezzo, quindi in qualche modo insomma c'è stata una crepa, qualcosa. Alla Lega ci sono stati due effetti, uno che ha pesato anche, però non è magari il fattore principale, è quello delle beghe interne, che chiaramente in un momento come questo, appunto, di poca di sfiducia nella politica, di grande difficoltà per le imprese e le famiglie, vedere un partito che si dibatte all'interno nelle baruffe più stupide, è chiaro che questo non aiuta, e questo è uno delle due componenti. L'altra è il fatto che, mentre a livello locale, quindi parlo di comuni, province, regioni, sei percepito come un buon amministratore e quindi godi di fiducia e ancora di consenso, a livello nazionale siamo stati al governo molti e molti anni, e poi per un motivo o per l'altro non è che noi non ci siamo impegnati, però i risultati, al di là di aver avuto per 3 anni Maroni ottimo ministro dell'interno, che lui come figura, diciamo, ha brillato da questo punto di vista, ma come azione di governo, come Lega, riforme, sburocratizzazione, federalismo, semplificazione della macchina amministrativa, riforma della giustizia, sono le cose che servono al paese, e senza le quali, riduzione della spesa pubblica, e senza le quali il paese affonda. Su questi fronti a Roma non abbiamo dato i risultati che la gente si aspettava da noi. I nostri ascoltatori leghisti si stanno arrabbiando. I commenti tienili per te, comunista. Buongiorno, ricordo alla giornalista che a noi ascoltatori interessano le notizie e non sapere che lei ha idee di sinistra contro la Lega. Questo è il commento di Massimo al 349-238-6666. Idiota, sei contenta della vittoria del tuo compare Cosimo Mele? No, non molto. Ci siamo resi conto che la Lega è come gli altri, Massimo Lavazza. Ecco, la mia opinione ovviamente non interessa a nessuno. Avevo detto, grazie al cielo, non sentiremo più queste espressioni, perché una cosa sono le idee della Lega, peraltro rispettosissime, meritano tutto il rispetto, possono essere condivise o no, ma comunque meritano tutto il rispetto. Un conto sono le espressioni di Gentilini, che sono davvero troppo. Era su questo che ovviamente appuntavo il mio grazie al cielo non le sentiremo più. A Roma, diceva Tosi, non abbiamo dato i risultati che la gente si aspettava da noi, ammette dunque Tosi nell'intervista che abbiamo appena sentito. Dunque la Lega ha lasciato spazio perché vincesse il candidato di centrosinistra. E il candidato di centrosinistra che ha vinto è Giovanni Manildo, un avvocato di 44 anni, sposato, con figli, attivo nel sociale, che ha presentato un programma di governo cittadino fondato sulla condivisione degli spazi, dei servizi, della politica stessa. Per Manildo la prima cosa da cambiare nella città è la capacità di dialogare con le associazioni di categoria. Lo ha raccontato lo stesso Manildo questa mattina nell'intervista della nostra Cristina Carpinelli. Allora, com'è sentirsi chiamare così in una città che per tantissimo tempo è stata nelle mani della Lega? Beh, entusiasmante, è una cosa bellissima. Ieri c'era un entusiasmo da finale di Coppa del Mondo a Treviso, gente che è venuta nelle piazze a dire dai, ce l'abbiamo fatta a cambiare, un entusiasmo contagioso e veramente emozionante. Abbiamo voglia di iniziare veramente un nuovo periodo, una nuova era. Si è chiusa tra i Gentilini 20 anni e siamo veramente felici. Secondo lei che cos'è che ha inciso nella sua vittoria? Ma senz'altro a livello locale la voglia di cambiamento, il fatto che siamo riusciti con la nostra coalizione a portare molta partecipazione, a dare una prospettiva di una città, un'idea di città diversa. E poi è innegabile che abbia giocato a nostro favore anche la divisione all'interno della Lega, e quindi ci sia stata questa combinazione di fattori per riuscire ad arrivare a fare questa cosa storica. Quindi voi in qualche modo vi siete presi anche dei voti della Lega, secondo lei? Ma questo della Lega non lo so, ma sicuramente qualcuno di centrodestra che ha ritenuto che fosse il momento di cambiare, fosse il momento di che la vera partita non fosse centrodestra, centrosinistra, ma la partita fosse vecchio e nuovo, staticità e prospettiva di futuro. Penso che, siccome noi abbiamo sempre fatto la campagna su questo, essendo propositivi su un'idea di città senza demonizzare chi ci ha governato per 20 anni, penso che qualcuno attirato dal cambiamento anche dall'altra parte ci sia stato. Quali sono le prime cose che vorrebbe fare da sindaco per la città di Treviso? Beh, quello svegliarla e dare un ruolo importante anche all'interno degli altri grandi comuni veneti, quindi con Padova e Venezia, parlare di area metropolitana che è un fattore di sviluppo, fare diventare Treviso una città amministrata non da un uomo solo al comando, che era lo stile di Gentilini, ma una città partecipata con la concertazione con le associazioni di categoria. A Treviso le associazioni di categoria sono molto avanti, hanno fatto un 1° maggio tutte quante insieme e c'è una voglia di rilanciare il territorio, il comune deve essere regista di questo rilancio. Poi dobbiamo investire su cose dimenticate dalla Lega, che sono sostanzialmente tutta la ricchezza che viene creata dalla cultura. Gentilini diceva che con la cultura non si mangia, noi pensiamo che sia invece esattamente il contrario, sia un fattore di sviluppo grandissimo. Il Bovaro di Treviso fa proprio schifo, scrive una nostra ascoltatrice da Schio. Poi ancora Gentilini, umanamente dico ricoveratelo, e con lui troppi leghisti deliranti che da anni ci inquinano l'Italia settentrionale, scrive Marina da Milano. Guerra civile speriamo, scrive un altro ascoltatore. Treviso diventerà un letamaio come Padova del porco zanonato comunista. Il popolo leghista inquieto in questi giorni. Un saluto da Maria Piera Ceci. Italia in Controluce si ferma qui, ma potete riascoltare le interviste e l'intera puntata su radio24.it. Un saluto in regia a Paolo Corleoni.